ciascuno di voi trasporterà metà delle 8 unità di energia del carico. Ricordate che a ognuno di voi servono 3 unità di forza per spostare una unità di energia ogni 10 metri. Ma il percorso è lungo 20 metri e voi dovete trasportare più unità di energia.